An Idiot, finché questa recita divina ridotta è una farsa di attori incompetenti, e le soluzioni ancora appariranno nei connotati di problema.